aspettano. Una vita che ti aspetto, una vita che rifletto. La mia vita non ha prezzo, sono schiavo di me stesso. Io rifletto sul domani non guardandomi alle spalle. La mia vita è passeggera, sono un'anima vagante. La mia vita è solo mia, la gestisco a modo mio. Se faccio qualche errore pagherò con l'oblio. Lotto sempre per qualcosa, non mi arrendo facilmente. Per gestire la mia vita ho bisogno di un'agenda. La famiglia, l'amicizia, l'amore e tutto il resto fanno parte della vita. Io non cerco alcun pretesto, resto solo ad aspettare. In spiaggia, arrivo al mare, i miei pensieri si disperdono tra le onde di sale. La mia vita si rispecchia tra mille più colori. Siamo cause consapevoli delle nostre azioni. Almeno sono fiero di essere uno su un milione. Scrivere ultime memorie tra gioia e delusione. Una vita tra chi lotta, una vita tra chi aspetta. Una vita che è finita per chi pensa poi di fretta. Una vita senza ostacoli, una vita che ne ha molti. Una vita che gesticolo tra risse sugli spalti. Una vita come stadio, una vita come al lago. Una vita che ti viene voglia di buttarla via. A pensare se qualcosa o qualcuno di più grande può decidere la vita di me, anima vagante. Ho una vita e non mi arrendo, faccio sempre quel che voglio. Gestisco tutto bene anche senza un portafoglio. Il mio rap dentro il mio dolo, le mie rime su sto foglio. Sono un tipo semplice, diciamo che me la colla. La mia vita non un horror, ma un film d'azione. Tra serate con gli amici e serate alla stazione. Wall car and the two end, figa, flop e tag. Serate presi bene, a ballare la rap. No. Fermi tutti. La mia vita è solo mia, non la cambio con nessuno. Chi mi invidia lo capisco, ma può andarsene a fanculo. Chi disprezza quel che faccio abbia almeno del coraggio a dirmelo davanti, tanto non mi fotto un cazzo. Il tuo odio, il tuo rancore che mi porti un disonore. Sei cresciuto con i miei pezzi, quindi prestami attenzione. Almeno sono vero e non faccio lo sbruffone. Tu cancella la tua vita e rifalla con onore. Una vita tra chi lotta, una vita tra chi aspetta. Una vita che è finita per chi pensa poi di fretta. Una vita senza ostacoli, una vita che ne ha molti. Una vita che gesticolo tra risse sugli spalti. Una vita come stadio, una vita come al lago. Una vita che ti viene voglia di buttarla via. A pensare se qualcosa o qualcuno di più grande può decidere la vita di me, anima vagante. Tra